Alex suda, ma suda in una maniera abominevole. È come una fontanella che gocciola in continuazione, quando cammina lascia le pedate sull'asfalto come se fosse appena uscito da un tuffo in piscina. Una cosa singolare, direi. Si cambia in media 8 volte al giorno i vestiti, d'estate poi arriva pure a 12. Va al lavoro che è già sudato e si deve fare la doccia. Il fatto è che però non puzza, ma il problema suo è che beve l'acqua. In realtà non si capisce se lui beve perché suda o suda perché beve. È un dilemma che nemmeno il suo medico gli ha saputo risolvere. Il medico di famiglia si è limitato a dire: «E cosa ne posso sapere io? Tu per caso sai se è nato prima l'uovo o la gallina?» È un circolo vizioso, perché se non beve si disidrata, ma se beve espelle dal corpo i liquidi. Lui appena beve invece di pisciare suda. Non piscia mai Alex, lui secerne il liquido dai pori della pelle. Il pisello lo usa solo per eiaculare. Alex preferisce fare l'amore nella vasca da bagno, si è fatto la jacuzzi grande che usa con la sua ragazza per farci l'amore. Lei si chiama Olivia e fa dei peti portentosi che però non puzzano, sono solo rumorosi, sono una coppia perfetta, sono innamorati. E nella jacuzzi Alex e Olivia scopano da Dio, tanto lui suda ma non se ne accorge nessuno. Lei scorreggia ma tanto c'è l'idromassaggio.